E lei mi chiederà se posso darlo, ascolto un cin cin con la pare, quindi sto solo oppure con i miei. E non so più chi sei te. Mi levi il follow, se quanto me ne fotte non so, porto qua. Ci vivo solo di notte in giro con i miei. E non so più chi sei te. Abbiamo provato droghe leggere e pesanti, ma non è ok. E giro in zona distante dagli altri quando non so più chi sei te. Non voglio saperlo. Mi fa male, questo vorrebbe il mondo. Quindi accendo questa, fanculo il mondo. Qui che cerca presto, no, non trova niente resto. No, non crede niente, questo ci chiude il mondo. Hey, yeah, io credo in questo da quinta elementa. Tu mi sai che stai indietro, vorrei vederti qua. Cosa vorresti fare? Non rispondere mai. Pensa ciò che ti ho detto. Quelle parolacce che ti ho detto dietro. No, non le penso, no, non le penso, non le penso. E stavo fuori dalla rabbia, un po' dal tuo consenso. Se lo metto, se lo metto, se lo metto. E non so più cosa diresti di me, boh. Se mai mi perdessi come foto e mi ritrovassi a terra rotto. E lei mi chiederà se posso darlo, ascolto un cin cin con la pare, quindi sto solo oppure con i miei. E non so più chi sei te. Mi levi il follow, se quanto me ne fotte non so, porto qua. Ci vivo solo di notte in giro con i miei. E non so più chi sei te. Abbiamo provato droghe leggere e pesanti, ma non è ok. E giro in zona distante dagli altri quando non so più chi sei te. Saperlo, no Xan, anche se l'ansia a volte mi diceva ma vuoi Xan, non hai imparato a non fidarmi di quella troia. Non ho indietro, non ci torno, con il giorno che sembra notte, la notte che sembra giorno. Cosa vuoi, wow, mi riprendo e ritorno like ground, wow. Prima stavo sotto per cosa, no, non lo so, ma perdona, non lo so signora. E lei mi chiederà se posso darlo, ascolto un cin cin con la pare, quindi sto solo oppure con i miei. E non so più chi sei te. Mi levi il follow, se quanto me ne fate non so, porto qua. Ci vivo solo di notte in giro con i miei. E non so più chi sei te.